Sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti e benvenuti nelle nostre frequenze. Questa è Blu Radio Veneto e la programmazione serale che si chiama Blu Radio Sera. Una buona serata da parte di Flavio Bilato e di Maurizio Calzavara, che insieme a me conduce questa trasmissione. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, abbiamo abituato i nostri ascoltatori a interviste e a live. In questa serata siamo ben lieti di ospitare Lia File, che è un gruppo che arriva direttamente da Bologna per proporci una musica davvero particolare che impareremo a conoscere durante questa serata. Come portavoce dell'Ia Fail in questa serata abbiamo Nico, che è venuto a trovarci. Buonasera Nico. Sì, buonasera a tutti, grazie per lo spazio che ci avete concesso. Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che questo sarà un live un po' particolare, perché per sopraggiunti impegni di lavoro alcuni componenti dell'Ia Fail non sono potuti intervenire in carne ed ossa e strumenti per la programmazione serale, però diciamo che cercheremo comunque di tracciare un quadro molto definito di quello che è l'Ia Fail, questo progetto di una musica, definiamola celtica, definiamola con dei filamenti gotici. Insomma, impareremo a conoscerla meglio questa sera, e in particolare anche per la presentazione di Sine Calstone. Però chiediamo subito una cosa a Nico, fresco fresco Nico. Allora, l'Ia Fail, Noi sappiamo cos'è, ma tu vuoi spiegarlo ai nostri ascoltatori? Sì, l'Ia Fail è un nome che viene da leggende norrene, da un'antica leggenda celtica. La leggenda narra che questa pietra, portata da una stirpe di semidei in Irlanda, avrebbe emesso dei profondi suoni di gioia una volta che il futuro regnante l'avesse toccata. È famosa anche come pietra del destino. Ed è proprio il destino, secondo me, che ha unito cinque persone completamente differenti fra di loro, unite dall'unica passione che è quella di suonare dal vivo. Il destino ha voluto che noi ci unissimo e formassimo questa band. Diceva Nico che persone che provenienti da posti diversi, che Bologna è stato il centro, il clou di questa unione praticamente. Sì, tutti i componenti della band provengono da ogni parte d'Italia, però abbiamo come casa, siamo a Bologna. Esattamente. Benissimo, allora questo album che presentate si intitola Cynical Stones, e per chi sa l'inglese dice, come abbiamo parlato prima di Lia Fail, quindi di una pietra sacra, di una pietra del destino, e adesso come titolo del disco abbiamo un Cynical Stones, quindi un qualcosa che un po' si scontra, visto che stiamo parlando di pietre ciniche se non altro. Esatto, pietre ciniche, diciamo, è il tema portante dell'intero album. Racconta della cinicità, cioè si può dire. Sì, sì, sì. Dell'essere... non cinecittà, esatto, ma cinicità. Non cinecittà. Sì. È il tema portante dell'album, però per il quale vorrei parlarne in un secondo momento, quando presenteremo la canzone portante dell'album. Benissimo, allora adesso direi di cominciare subito a entrare nel pieno della trasmissione presentando quello che è il primo pezzo dell'album Cynical Stones di Lia Fail, che si intitola Restless Eyes, e poi torniamo a commentarlo insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. An unpaved zone, sparkers and shards, and it's covered by a strange line. A strange line. A promise ring. Where does the path finish? Where does it die? On the ground I see a paper. Eyes search. without finding. I let my breath rest, sliced by the trouble. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Bene, cosa ne pensate? Direi buono, no? Come inizio per quanto riguarda gli Affail, il loro ultimo lavoro si intitola Cynical Stones. Ci siamo ascoltati il primo pezzo da disco, si intitola Restless Eyes. Allora, abbiamo la fortuna di avere con noi Nico, portavoce di Lia Fale, per diciamo capire sempre di più qualcosa di questo quadro Cynical Stones, e in particolare capire qualcosa di più anche dei testi molto molto forti, molto cruenti, che parlano di guerre, di battaglie. Come mai hai scelto questi testi in questo sottofondo molto, diciamo, celtico, chiamiamolo così? Guarda, per quanto riguarda i testi, diciamo che tutto l'album ha come tema portante lo stile di vita basato sull'insistenza di una guerra infinita. Tanti popoli magari costretti da un regime di vita militare. Naturalmente la canzone che abbiamo appena ascoltato, Restless Eyes, anzi devo dire che in radio si sente veramente bene, è la prima volta. Che la senti in radio, anche bene. Mi dà una leggera emozione. Ti posso garantire che non sarà l'ultima. E questa canzone parla di un vecchio soldato che, raggiunto la vecchiaia, viene turbato dai ricordi dei compagni perduti in inutili quanto terribili battaglie. È proprio l'inutile battaglia che è il tema portante di questa canzone. Spesso l'arte bellica ci illude che la guerra si sviluppa con delle strategie ben precise o che rispetti addirittura delle regole. Invece la guerra con tutta la sua furia omicida spazza tutto quello che trova davanti e tutte le esistenze umane. Tra altre cose, Nico, all'interno di questo testo, guardandolo, non c'è nessun riferimento a armi particolari. Quindi vuol dire che è un testo che assolutamente poteva andare bene nel Medioevo, quando c'erano picche, lance e spade, e adesso quando ci sono fucili, mitragliatori, bombe a mano, obici e via. Guarda, purtroppo la storia si ripete. E quindi assolutamente attuale, nonostante l'atmosfera si volesse magari creare, era quella di una battaglia, ancora come eravamo abituati a vederla con i classici soldatini della lontana Inghilterra. Esatto, allora si squartavano con le spade, ecco, invece noi oggi abbiamo i missili intelligenti, però il risultato è sempre lo stesso. È sempre quello il risultato. Musicalmente è un pezzo decisamente folk. Su un sito di side.it scriveva la cultura folk applaude, e assolutamente applaude, questo è un pezzo decisamente folk. Possiamo anche chiamarlo una giga un po' decisamente più velocizzata, questo violino, che praticamente è il centro del racconto musicale. Come mai questo violino è al centro del racconto, Nico? Guarda, le nostre canzoni nascono in maniera abbastanza semplice. Con un semplice giro di chitarra o giro di basso incominciamo una canzone. Preparo tanti provini che faccio sentire agli altri, poi scegliamo quello che secondo noi ha maggior sviluppo. Il violino è entrato successivamente, in quanto avevamo bisogno di dare un brio leggermente tradizionale popolare alla canzone. Il nostro violinista Willy si è prestato a creare la parte di violino, registrando tante varie session di violini, e poi abbiamo scelto quelli che più andavano meglio con la canzone. Sì, perché il violino dà vivacità, movimento al pezzo, decisamente. Bene, allora salutiamo anche i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo via streaming audio, collegandosi al nostro sito bluradioveneto.it e cliccando nella diretta audio, che è propria della pagina informativa riguardo alla programmazione di questa sera con Lia File. Allora, non potendo suonare con il gruppo... A proposito, scusa se ti interrompo. Sì, prego. Io volevo chiedere scusa a tutti gli ascoltatori per il fatto che i miei compagni non sono potuti venire. Ma figurati, ci sono impegni lavorativi che, purtroppo, importanti. Purtroppo o per fortuna noi non viviamo di musica. Di musica. Siamo tutti lavoratori precari o studenti universitari. Quando il dovere chiama, purtroppo dobbiamo essere presenti. Non che questo impegno fosse meno importante, sia no, ben chiaro. Assolutamente. Però sappiate che i miei compagni, piuttosto di fare il turno serale in fabbrica, volevano essere qui. E noi, e quindi, guarda, ne approfittiamo anche per salutarli. Visto, ecco, che io ci siamo... già che ci sono ve li presento. Sì, sì. Andrea Carboni alla voce, Giuseppe Sansolino alla batteria, William Adori al violino, Edoardo Franco alla chitarra acustica, Sabella Spiga alla voce e l'ultimo entrato nel gruppo, Giovanni De Benedetto, alla chitarra. Bene. Inoltre nel disco hanno suonato anche Simone Montanari al violoncello e Saverio Tesolato al pianoforte. Benissimo, poi ancora Andrea Carboni suona anche il flauto traverso. Esatto. Quindi avremo modo anche di sentire la sua espressione musicale in questo senso. Allora, sistemiamo la prima traccia, chiamiamola acustica, per fare ascoltare una nuova maniera di vedere la musica di Lia File, quindi presentando Lost in the Wind e poi tornando a commentarlo insieme qui a Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. To stretch out on the sand and set free my gaze into the blue infinity. To stay there like that without thinking and lose myself, I'm on the cloud. drum of freedom and cry out with all my heart. That brushes me, caresses me, and gather the stars as if they were flowers in a field. I look like a bird with the sky. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche gli Affail nella versione acustica con Lost in the Wind, dove abbiamo notato un ottimo basso a percuotere la trasmissione in tutta lunghezza e larghezza. E poi ancora la chitarra di sottofondo e queste due voci veramente potenti, soprattutto in questo caso la voce la voce maschile, scusa, che faceva anche questi cori, questi è veramente fantastica. Dal vivo immagino avrà un'atmosfera ancora più grande, Nico. Ma diciamo che siamo fortunati ad avere dei cantanti abbastanza dotati, ecco. Decisamente dotati. Dicevo una cosa giusta, questo canto quasi gregoriano, è vero. E un giornalista ha scritto anche un canto che trasuda del dark wave, della musica dark, oscuro, un folk oscuro. E questo, in questo episodio c'è proprio un folk oscuro, che sembra venire da lontano, dalle tenebre, viene su. Ma diciamo che abbiamo un background abbastanza oscuro, sì. Scuro, decisamente, sì, oscuro. Decisamente oscuro. Diciamo. Ma l'oscurità nel senso positivo può essere anche malinconia, che può essere drammaticità, che può essere una forma di romanticismo l'oscurità, secondo me. Non so se sì, un romanticismo che viene molto anche dagli anni Ottanta, sì, dagli New Wave, degli anni Ottanta, di quel periodo lì. Sì, si sente anche un po' di New Wave. New Wave, dire. Decisamente sì, New Wave. Guarda, mi fa piacere che lo dici perché ci speravo, sì, veramente. No, si sente effettivamente. Chi avrà modo anche di ascoltare tutto il disco noterà naturalmente che ci sono sì le atmosfere celtiche che si vivono soprattutto in certe canzoni, ma si respira anche quella che era l'atmosfera degli anni 80, quegli anni lì dove c'era la New Wave che andava molto molto bene. Sembra quasi una musica elettronica, ma tu mi confermi che naturalmente gran parte degli strumenti utilizzati sono soprattutto a livello acustico. Sicuramente non abbiamo utilizzato nessun tipo di elettronica, ecco. Anche il pianoforte è un pianoforte vero che era presente nella sala di registrazione. Diciamo che le sonorità dark che avete ascoltato derivano appunto da quello che abbiamo sempre ascoltato in tutta la nostra vita. Dai vostri trascorsi musicali, praticamente. Esatto, queste canzoni le suoniamo da tanti anni le abbiamo suonate in maniera tale che potessero rendere contenti ognuno di noi, anche se ognuno di noi ascolta della musica completamente differente. Io per esempio ascolto molto la New Wave anni 80, il dark di quel periodo. Certo. Però per esempio Andrea gli piace molto il blues, a Edoardo, il chitarrista, gli piace molto il metal anni 70, c'è anche un po' di prog effettivamente. Sì, decisamente sì, qualcosa di prog. Quindi spesso ci hanno classificato come gruppo folk perché giustamente i giornalisti in qualche maniera devono più spiegare. Devo identificare, esatto. Ci vuole un'etichetta, no? Esatto. È un'etichetta che serve solo a spiegare ai lettori o agli ascoltatori come inquadrare bene o male un genere musicale. Però in queste canzoni non c'è solo New Wave, ma c'è anche tutto il rock che abbiamo ascoltato in questi... Anche il punk qualcuno ha scritto. Come punk, diciamo... post-punk però. Come punk c'è l'attitudine. È l'attitudine, esattamente. Nel senso che nelle canzoni sul disco abbiamo cercato di trasportare quello che facciamo effettivamente dal vivo. Quindi questa, pochi accordi, suonati bene, registrati bene, che colpiscono. Quindi siete animali dal palcoscenico, se dici così. Effettivamente abbiamo una carriera live abbastanza... abbastanza non siete i Pogs però ancora. No, purtroppo no. Va bene, ne faranno di strada. Esattamente. Io spero vivamente di arrivare, non di avvicinarsi ai Pogs, però fare una strada talmente bella come quella di Pogs, perché no? Speriamo di venire di nuovo qui alla radio. Come no, per voi. Ma quando diventerete famosi come i Pogs, voglio dire, in questa radio, no, voglio dire, no, comunque, vabbè, siamo assolutamente felici di ospitare questa musica, ci è piaciuta subito dall'inizio, anzi ne approfittiamo per salutare anche Alberto Prisco, che è il nostro, diciamo, chiamiamolo direttore artistico, è colui che ci dà una forte mano nel scegliere appunto anche gli artisti che vengono durante queste serate, e quindi un altro colpo veramente sicuro l'ha dato con invitando appunto Lia Fail in questa serata. In particolare abbiamo Nico che ci sta sviscerando un po' quella che è la situazione musicale a Lia Fail, vista, siamo partiti vedendolo da un punto di vista celtico, siamo già arrivati alla new wave, poi passando dal punk, comunque creiamo altre sfumature riguardo la musica. Allora ci prendiamo un'altra brevissima pausa ascoltando un altro pezzo dal vostro disco che si intitola Cynical Stones, e in questo caso diamo spazio a Just a Breath. Blu Radio Sera. Just a breath, a daylight pours into night, and night merges with the light. I turn my eyes towards the future, but my feet already reach the end. Smile becomes a mocking laughter, wailing turns into whimper. Of the one who breathes last, longing, thirsty for life. Just a breath from sunset to sunrise, the whole life is a short illusion. Just a breath from sunset to sunrise, the whole life is a short illusion. In laughter, wailing turns into whimper. Oh, the one who breathes last, longing thirsty for life. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Lia Fay, il nome del gruppo, loro arrivano da Bologna. Cynical Stones, il nome del loro lavoro, quello che ci stanno proponendo in questa serata. E ci siamo ascoltati un'altra traccia, Just a Breath, che ascoltando e capendo un po' di più i testi, grazie anche alle traduzioni che Nico ci ha fornito, siamo riusciti a capire che questa è anche una canzone della speranza, chiamiamola così, in mezzo a tutte quelle che era un malessere chiamato in Restless Eyes, dove si parlava di guerra. Forse qua questo respiro c'è, lo si vede all'orizzonte. Sì, diciamo che le nostre canzoni non sono completamente apocalittiche, diciamo, come sì. Spesso qualcuno ci ha definito, diciamo che c'è un messaggio di speranza in fondo ogni brano. È vero che dopo l'Apocalisse il popolo deve comunque risorgere a nuova vita, deve cercare di non commettere gli stessi errori che sono stati fatti prima. Quindi diciamo, non vogliamo essere così oscuri come spesso qualcuno ci ha definito, vogliamo anche sorridere alla vita. Quindi questa è un sorriso alla vita, è una canzone di speranza. Molti critici hanno detto che questa è la canzone più importante dell'album, sei d'accordo? Ma sai cosa? È per me molto difficile scegliere qual è la canzone più importante dell'album. Posso dirti qual è la canzone che è fondamentale per capire questo disco, però sono tutte interpretazioni. Tutte libere interpretazioni. Mi fa piacere che qualcuno comunque giudichi una canzone piuttosto che un'altra. Hai visto che ci siamo? Come l'avete costruita? Come l'avete costruita? Come arrangiamento? Era più difficile rispetto alle altre, oppure è andato via liscia come tutte le altre? No, per fortuna questa canzone è andata abbastanza liscia. C'è da dire che queste canzoni le suoniamo da diverso tempo. Quindi nei nostri numerosi concerti le abbiamo suonate e risuonate, provando spesso anche delle soluzioni diverse. In studio soprattutto siamo stati aiutati dal nostro produttore artistico, che si chiama Saverio Tesolato. Che cosa ha fatto dal punto di vista tecnico? Vi ha indirizzato in una certa maniera, vi ha smussato certe cose? No, Saverio è una persona dalla spiccata cultura musicale. Gli è bastato ascoltare le nostre canzoni per capire quali erano i punti da valorizzare e altri dove si poteva fare qualcosa per renderle diversa da altre canzoni già sentite. Quindi il suo lavoro è stato quello di ascoltare bene le canzoni, analizzarle, darci dei precisi consigli su cosa fare o cosa non fare. In più lui ha scritto tutte le parti di pianoforte e tutte le parti di violoncello. Quindi ha collaborato non poco, naturalmente, decisamente. Sì, tra altre cose poi più tardi ascolteremo anche una traccia che proprio lui, Saverio Tesolato, ha voluto sistemare proprio in coda al disco, quasi a fare una sorpresa a voi in questo caso. È un regalo. Esatto, Saverio e Simone fanno parte di una band che si chiama Autunna Ezzarosa, una band che fa musica contemporanea. Quindi lui ha interpretato una nostra canzone che inizialmente era stata esclusa dall'album, lui l'ha interpretata nella maniera sua, con la sua arte, e ne ha reso una chicca che ha voluto regalarci in coda all'album. Naturalmente poi, se c'è tempo, l'ascoltiamo. Sì, certamente. Sì, vabbè, direi che si può stravolgere anche tranquillamente. Si può cambiare la scaletta. Perché non possiamo metterla adesso, dico io? No, d'accordo, allora... Nico, oppure no? Questa è casa vostra. Sì. Vabbè, dai, allora la sistemiamo, visto che ne abbiamo parlato, mettiamo questa traccia fantasma che viene subito dopo il brano che è il numero 10 di tutta la scaletta musicale di Cynical Stones, e che non si percepisce immediatamente perché c'è un minuto abbondante di silenzio e poi il tutto inizia così. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. flute wind disperse in the foggy air. Words, laments and prayers that slowly arise from the stale boned sleep, hoping to be heard at last by any human ear. Voices of white limbs, invisible hands in the sky, looking for light blue horizons. The dark silence pierces this soul that, facing the sunset like a burning arrow, follows no path anymore towards the earth. It faces its unhappy look. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato forti sonorità, in questo caso con la traccia fantasma tratta da Cynical Stones, Lea File, i protagonisti di questo album. In particolare questa è quella traccia regalata da Saverio Tesolato, che è anche un esperimento musicale, chiamiamolo così, dove prende a pugni un pianoforte praticamente. Esatto, infatti ci ha anche sconvolto in sede di ripresa, mentre stavamo registrando il brano. Saverio era così preso dall'impeto di suonare di questa canzone che spesso l'ho visto anche dare dei pugni al piano. Al piano. È musica assolutamente contemporanea, chiaramente. Esatto, impressionante, vero? Sì, è proprio impressionante, dà proprio la sensazione. C'era un altro che prendeva a pugni, meglio, che dava le coltellate al piano, era l'organo, era KTM, insomma, un po' di tempo fa con i Nice. Però questa forza, questa irruenza, contraddice una musica diversa, una musica alternativa. Esatto, sì, molto alternativa, e Saverio è una persona anche... Dalle qualità artistiche veramente impressionanti, che raramente ho sentito in altri artisti. E si collega, secondo me, al discorso del vostro disco, perché il vostro disco non è un disco atipico, ma è un disco atipico, perché il folk è solo un pretesto per poi variare, per allargare l'orizzonte musicale. Secondo sì, me. Sì, diciamo, ci hanno definito folk perché non manca la chitarra elettrica. Non manca la chitarra elettrica. Però non è detto che nel secondo album, perché noi faremo un secondo album, e questo è importante, non è detto che ci sarà anche una chitarra elettrica, appunto, quindi è un presupposto non da poco, vero Flavio? Cosa quindi dici? Assolutamente, sempre alla ricerca di nuove sonorità, quindi abbiamo aggiunto un nuovo vocabolo anche, quindi abbiamo detto celtico, abbiamo detto gotico, abbiamo detto anche punk, siamo passati per la new wave, adesso abbiamo aggiunto anche il termine folk. Bene, andiamo avanti. Sainical Stone, approfitto per salutare anche tutti gli amici di Facebook che mettono il mi piace nella nostra pagina, che è Blu Radio Veneto Rock Wave, e poi perché no, risalutiamo quelli che ci ascoltano in streaming audio. Poi ricordiamo che la trasmissione che stiamo facendo questa sera è anche registrata, quindi sarà sistemata all'interno dei nostri archivi sonori, così per far sentire in una maniera un po' diversa il Liafile, anche perché per entrare in possesso di Cynical Stones come si fa, Nico? Guarda, questa è una bella domanda. Purtroppo i negozi di dischi stanno diminuendo notevolmente. Sì. E dischi come il nostro raramente si trovano in negozi dove vendono Vasco Rossi o Ligabue. Con tutto il rispetto per Vasco Rossi o Ligabue. Se volete il nostro disco è perfettamente rintracciabile attraverso i nostri siti, no? Le nostre social page. Tu hai nominato Facebook, ma io dico anche MySpace, Last.fm, siamo perfettamente rintracciabili sui nostri siti, ci sono le nostre mail, i nostri contatti, chiamateci e noi risponderemo. Invitateci a suonare nella vostra città, noi quello è importante. Quindi anche ai vostri concerti chiaramente si trova il disco, il famoso baracchino che si usa. Sì, naturalmente sì, e costa veramente poco, costa meno di una pizza e birra, quindi fatelo vostro, perché è un CD e per sempre. Benissimo, tra altre cose c'è anche il vostro sito che state cominciando a curare in questi momenti, liafile.it. liafile.it, esatto. Benissimo. Poi naturalmente siamo su Facebook, siamo su MySpace, ecco, tutti gli amici di Facebook sono 500 e passa. Se ognuno di loro comprasse un disco avremmo già venduto 500 dischi. Certo. Molto bene, allora speriamo che anche con l'ausilio degli ascoltatori di Blu Radio Veneto ci sia ancora maggior impatto della musica di Liafile, così da fare ancora magari un 600-700 copie in più. Ancora un altro esperimento in versione acustica per Liafile. Adesso ci ascoltiamo New Dimension, poi torniamo a commentarlo insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. It's so blessed to escape, setting to void the darkness of time. Reality follows your restless play. Your flight is in a vein. The face is hidden by stones. Breath gasping and heavy slides over the wall in lament. Over the I cannot perceive the light, the splinters on the ground. Death to the call. The hair is listening to the real sound. And the soul rides you wide. Celestial spaces in search of a new dimension. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ecco qua l'altro esperimento acustico di Lia File, solo basso e voce praticamente per questo pezzo New Dimension, che parla di una fuga verso una dimensione che si sta cercando o si sta creando, un qualcosa che comunque è una lotta contro il tempo. Esatto, questa diciamo è la canzone più dark, finalmente siamo arrivati al dark. Siamo arrivati al dark. La canzone più dark dell'album, effettivamente spiega come ci affanniamo a rimanere attaccati a questo mondo, a questa realtà, mentre trapassiamo appunto in una nuova dimensione. E questa nuova dimensione, io vorrei dedicare questa nuova dimensione anche alle canzoni di questo album, per far capire agli ascoltatori quanto queste canzoni siano dei figli, veramente. Queste canzoni le suoniamo da tanti anni, sono cresciute, sono evolute da soli, appunto, in una nuova dimensione. Questa dimensione, quando l'abbiamo trovata giusta, l'abbiamo registrata nel disco che stiamo ascoltando. Effettivamente questa canzone si distacca un po' anche dal tema portante del disco, che finalmente vorrei parlare. Ecco, vai. Sì, prima mi avete fatto la domanda all'inizio dell'intervista, non volevo subito entrare nel vivo del discorso, perché volevo prima far abituare l'ascoltatore alle nostre canzoni. Ora, certo, che bene o male spero ci abbiano ascoltato, volevo spiegare appunto qual è il tema portante. È vero che prima abbiamo parlato di guerra o di insistenza in una guerra infinita, come spesso succede anche al giorno d'oggi. Non so perché il pianeta va avanti con le guerre e non con trovare un qualcosa che faccia arrivare l'acqua in tutti i paesi. Sarebbe una cosa importantissima. In tutti i paesi, esatto, del mondo. E il fatto che nessuno si preoccupi di far arrivare l'acqua in questi paesi fa notare qual è lo stato di acidia che dilaga la nostra società. Siamo diventati delle pietre ciniche, che non si occupa più del prossimo, non ci rendiamo conto che l'uomo sta facendo veramente delle disgrazie, estinzioni, guerre, carestie, ma anche disastri ambientali. Noi ci occupiamo sempre del PIL, ultimamente ci stiamo occupando anche dello spread, però nessuno che si occupa del prossimo, nessuno che si occupa dello Stato nostro vicino di casa, che purtroppo sta andando, si può dire, in malora? Naturalmente io qui non vorrei parlare di politica, non è questa la sede, comunque non vorrei neanche annoiarvi, però questo per spiegare qual era il tema portante del disco. Certo, comunque per dire, per questi pozzi d'acqua, l'acqua che deve arrivare a tutti è un diritto. E c'è il progetto Rizophonic, no? Che sta portando avanti le varie costruzioni di pozzi d'acqua in giro per il mondo, nelle zone disagiatissime. Esatto, questo progetto è una piccola goccia che l'uomo potrebbe fare, cioè invece di spendere in armamenti si potrebbero costruire asili. Ecco, questo è un tema che un po' mi tocca, perché da poco sono babbo e quindi ho notato che ci sono pochi asili e troppi cacciabombardieri. Io vorrei sapere cosa ce ne facciamo di questi cacciabombardieri. Comunque, torniamo al disco. Il tema Shining Castone è un titolo che viene dal testo di Like a Star, che piace anche al nostro regista, quindi se vuole anche co-conduttore del programma. Esatto. Like a Star, tra le altre cose, appunto, prima di iniziare la trasmissione avevo manifestato a Nico, in questo caso, che tra tutti i pezzi, pur sempre tutti mi erano assolutamente piaciuti, però Like a Star, non so, mi affascinava più degli altri. Comunque è un bel pezzo, ma continuiamo a parlare di questo di questa concezione, appunto, di quello che stavi dicendo adesso. Sì, noi abbiamo cercato di fare anche un album di denuncia. Dico nel nostro piccolo, perché siamo una band esordiente, però io spero che con le nostre chitarre, con i nostri violini, riusciamo a toccare quei cuori, parlando anche di temi importanti, anche piuttosto tristi, tra virgolette. Una band esordiente, però, che aveva fatto qualche EP prima. Sì, sono dei demo, sono dei CDR, che è un passo necessario che tutte le band esordienti devono fare per far ascoltare la propria musica. Certo. E noi siamo stati fortunati perché i nostri demo sono stati recensiti ottimamente, vero, non solo dalle webzine ma anche dalla stampa nazionale, quali Rockerilla, certo, o Rumore. E quindi questa fa parte comunque della gavetta, e noi non solo abbiamo fatto dei demo e tanti concerti, ma più sono molto i concerti che ci hanno finalmente aperto la strada ad entrare finalmente in uno studio di registrazione. Perché per fare i concerti si fa la gavetta facendo i concerti, ci si costruisce musicalmente facendo i concerti, suonando, e quello è importante. Non solo suonando, ma anche fare tanti chilometri in macchina, certo, montare il palcoscenico, quello è. Suonare a tarda notte, come succede in Italia, rismontare gli strumenti, tornare a casa il mattino dopo e andare a lavorare. E poi andare a lavorare. Come sempre capita, però è la passione che non ha ostacoli, che non ha confini. E per farsi conoscere bisogna fare anche così, caro Nico. Purtroppo è così, non c'è poco da fare. Ma a noi ci fa piacere. Noi, questo gruppo è nato perché vogliamo suonare dal vivo. Anzi, io da questo microfono faccio un appello a tutti i gestori, tutti gli organizzatori di concerti. Noi siamo qui per suonare, non vogliamo diventare ricchi con la musica. Noi, è la musica stessa che ci arricchisce. Ecco, se ci entrassero anche i soldi per la benzina sarebbe meglio. è quello sempre l'ennesimo problema, perché per spostarsi si spende, quindi si va oltre quella che è la passione. Però ecco, siamo qua a parlare ancora di quella che è la musica di chi si diletta a farla, e però rimane sempre, diciamo, grande professionalità, ma sempre relegata a quegli spazi temporali in cui ci si può trovare insieme per suonare, avendo tutti altri lavori, perché non tutti sono come i Pooh, che insomma sono guadagnati da vivere solo con la musica, solo per fare alcuni esempi. E anche se era il meno indicato in questo caso. Comunque, beh, anche loro hanno fatto prove, sì, Comparsi sì, fa all'inizio di carriera, dai. Ecco, sì, sì. Anche loro, diciamo, facevano dell'altro prima di scoprirsi musicisti. Sì. Vabbè, allora ancora spazio alla musica di Lia Fale, ancora un'altra traccia di Cynical Stones. In questo caso diamo voce anche a Battlefield. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Hands over frozen fog reaches my aching heart and slowly ties in. Its silent shadows brings melancholy to my eyes, extinguishing my vigor. Only pain in front of death. Only pain in front of death. Only pain in front of death. Only pain in front of death. The tough heaviness of the bayonet powerfully struck in me, suffocates my air. Close I see you struck me, and I wonder why. My sight is out of focus. I only see man's terrible world. Only pain in front of death. Only pain in front of death. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Lia Fale, Cynical Stones, sempre all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, ancora con Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Allora, questo pezzo, Battlefield, quindi questo campo di battaglia, sembrava quasi una musica da film, con questa voce recitante che dava sostegno a delle immagini che si vedevano, si intravedevano di questa guerra terribile, come la chiama la voce recitante, in queste pene infinite. Sì, diciamo che l'impeto del violino e della batteria ha voluto descrivere quello che è la canzone più cruenta dell'album. Sì, descrive il combattimento con la baionetta tra due soldati. E diciamo che è il brano che dell'album che rappresenta il non senso della guerra, cioè combattere corpo a corpo per uccidere in nome di una religione o addirittura di un'etnia. Questa canzone può ricordare la Seconda Guerra Mondiale, come può ricordare le guerre intestine che stanno capitando ultimamente nelle città arabe, stessi concittadini che si ammazzano fra di loro in nome di una religione o di una casta o di un'etnia diversa. So di annoiarvi con la politica, però purtroppo quando si trattano di canzoni di denuncia si cade spesso nel parlare di politica. È una canzone molto cruenta, però il violino di Willy, la batteria di Giuseppe hanno fatto in maniera tale che sia anche una canzone ascoltabile. Sì, è una danza praticamente. Esatto, esatto. Una specie di danza, una danza cruenta finché vuoi, movimentata, la danza deve essere movimentata. Mentre il lato dark l'ha dato Andrea con il suo vocione. Ma molto dark, perché Andrea ha una voce molto dark, assolutamente dark. Noi abbiamo, mentre il microfono spento, cari ascoltatori, abbiamo parlato di Mark Lanegan, abbiamo parlato di Johnny Cash in determinati momenti, abbiamo parlato del leader di Current 93, ecco, soprattutto il leader di Current 93, di quel gruppo inglese, decisamente avvicina ad Andrea come sonorità. Beh, i Current sono una band che apprezziamo tantissimo, e io ho avuto la fortuna di vederli anche due o tre volte. Dicevi che erano sostenuti da una band spaventosa. Sicuramente hanno una band formata da musicisti molto importanti, i quali hanno anche delle carriere soliste. Sì, esattamente. Molto, diciamo, importanti, più forse dei Current, esattamente, nel senso un Anthony D. Johnson o un Baby D spesso sono molto più famosi o conosciuti dei Current 93. Anche se i Current hanno un gruppo di dei fan di nicchia che continuano a portare avanti il loro successo, perché loro fanno dischi a ripetizione e sempre autoprodotti al 100%. Sicuramente sì, e il prossimo concerto che faranno io sarò in prima fila. Perfetto. Benissimo, abbiamo parlato finalmente di un gruppo che non conosco e che andrò a sentire subito, curioso di questo che è il suggerimento anche di Nico e di Maurizio. Abbiamo parlato prima dei gusti musicali sui generis, ma diciamo, Nico, dovendo portare un po' di dischi con te via per un periodo, quali ti porteresti dietro? Naturalmente parlo dei miei gusti personali. Parla dei tuoi gusti personali. La prossima volta che porterò i miei amici faccio parlare solo loro. Sì. Ma sicuramente io ho dei dischi fondamentali che mi porterei se dovessi andare sulla luna o su un'isola deserta. Sicuramente porterei Concert e The Cure, un disco live The Cure. E a proposito di live, mi piace anche Stop Making Sense dei Talking Heads, che è anche quello un disco live molto bello. Mi porterei anche Alchemy, The Dire Straits. Altro live. Naturalmente. E già che ci siamo, porterei Under a Blue Red Sky degli U2. E poi mi porterei naturalmente l'amore adolescenziale, Arena dei Duran Duran. Come mai i Duran Duran? Come mai questo amore, Nico, per i Duran Duran? Ma è forse grazie ai Duran Duran che io suono il basso, sai? Perché c'era John Taylor, per me è il miglior bassista che abbia mai visto. A meno da ragazzino era il miglior bassista che vedevo o che si poteva vedere in televisione a quel periodo. E il suono del basso di Duran Duran ha fatto in maniera tale che io mi innamorassi del suono. Poi naturalmente ho scoperto Cure, poi naturalmente ho scoperto i Talk Talk, che avevano un basso meraviglioso, e naturalmente anche i Talking Heads, gli U2, cioè sono tutti gruppi che hanno un basso molto molto importante. Però sei partito dai Duran Duran. Però, no, diciamo che i Duran Duran è il primo gruppo che ho ascoltato con coscienza cognizione di causa, nel senso che avevo incominciato ad ascoltare da ragazzino la musica. Ascoltavo anche, sì, ascoltavo i Talking Heads, ascoltavo anche altri gruppi, però i Duran Duran sono stati quel gruppo che mi ha dato la spinta a comprare un basso e a suonarlo. Il tuo basso quando l'hai comprato, a che età? ma forse avevo 18 anni. Avevi 18 anni. Lo conservi ancora o poi hai venduto? Purtroppo no. Ah, non sai più. Vabbè, comunque è la prima volta che sentiamo citare i Duran Duran durante tutto il corso delle nostre trasmissioni live. Esattamente. E quindi fa piacere comunque sapere che ancora qualcuno è un estimatore di questo gruppo, che comunque ci ha dato dei bei dischi, non solamente come Duran Duran ma anche come Arcadia in certe situazioni. Adesso Taylor non so da che parte sia finito dei Duran Duran. No, John Taylor è ancora dei Duran Duran. È ancora Duran Duran. Simon LeBon è ancora, quindi esatto. Hanno fatto un disco non tanto tempo fa, sarà qualche mese. Esatto, e quest'estate sono venuti anche in concerto. Sono venuti in concerto. Sei andato a vederli? Naturalmente. Perfetto. Bene, allora adesso fermiamoci un attimo di parlare di Lia Fale e di Sine Eccleston, perché ci ascoltiamo un pezzo davvero particolare, vediamo se gli ascoltatori lo riconoscono. Blu Radio Sera. As I walked over London Bridge one misty morning early, I overheard a fair pretty maid was lamenting poor Geordie. Oh, my Geordie will be hung in a golden chain, it's not the chain of many. He was born from King's royal breed and lost to a virtuous lady. Go bridle me, my milk-white steed, go bridle me, my pony. I will ride to London's court to plead for the life of Geordie. And Geordie never stole no cow nor corn, he never heard it. Looked over his left shoulder, he said, for maid, I'm sorry. So for maid, you must be gone, for I cannot pardon Geordie. Oh, my Geordie will be hanged in a golden chain, it's not the chain of many. Stole 16 of the king's royalty, and he sold them in Bohany. Oh, my Geordie will be hanged in a golden chain, it's not the chain of many. Stole 16 of the king's royalty, and he sold them in Bohany. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E con queste sonorità siamo andati a quello che era il XVI secolo in una delle child ballads, era Jordi, tutti l'avranno sicuramente riconosciuta e molti la conoscono cantata in italiano da Fabrizio De André assieme alla figlia, mi sembra Mavi o Luvi, ecco, non mi ricordo più il nome. Comunque Lia Fai, questa è la seconda versione, la prima versione non era cantata dalla figlia all'inizio del Era cantata da Dori Ghezzi. No, neppure da Dori Ghezzi, da lei, ecco. da un'altra vocalista, sì. Nel secondo disco di De André, dopo chiaramente l'ha cantata la figlia. Benissimo, in questo caso però Lia Fail l'hanno cantata e suonata con quello che era il testo antico proprio inglese o scozzese. Esatto, il testo originale in inglese, sì. Il testo originale in inglese. Come mai avete scelto questa ballata sì conosciuta per appunto ampliare i vostri orizzonti sonori? Ma sicuramente abbiamo voluto rendere, diciamo, omaggio a un artista quale De André. De André, esattamente. Perché effettivamente io questa canzone la conoscevo prima in versione di André, poi facendo le nostre brave ricerche abbiamo imparato anche il testo in inglese. Ma diciamo che questo testo, questa canzone l'abbiamo voluta registrare per rendere omaggio anche a quello che di celtico effettivamente noi riusciamo a interpretare. Naturalmente qui non c'è il violino, dal vivo spesso la suoniamo con il violino, però qui vi ho portato questa versione molto minimale, sì, molto rallentata, esatto, molto minimale, solamente con chitarra, basso e il tubo l'albel, perché volevamo maggiormente risaltare le preziose voci che hanno interpretato questa canzone. Naturalmente De André è un artista, è un poeta, è un cantante che non possiamo non adorare, anzi chi non piace De André. Naturalmente non mi sento di parlare in questa sede di De André perché ormai si è già detto tutto e io direi solamente delle cose ovvie. Possiamo confermare però che ci piace De André, amiamo la sua musica, adoriamo le sue poesie. Posso anche dire che io e mia moglie siamo andati in pellegrinaggio al cimitero di Staglieno a Genova a rendere omaggio alla tomba di De André. Però ecco, non tocchiamo più questa santità. Sì, che comunque era anche un personaggio controverso, perché era un abilissimo musicista, cantastorie, poeta, tutti messaggi positivi, però era un personaggio anche molto, molto difficile da, come dire, da starci vicino piuttosto che da lavorarci anche insieme, quindi era sempre molto molto esigente, a volte troppo, mandano a dire alcuni. E poi una persona particolare, forse come tutti gli artisti dovrebbero esserlo. Allora abbiamo fatto questa pausa dedicata a De André e adesso merita un piccolo, diciamo, cappello la prossima canzone che andiamo ad ascoltare, perché dovete sapere, carissimi ascoltatori, che Lia Fail non si esprimono solamente in inglese, però chiederei subito come mai non una canzone in italiano intanto. Questa è una bella domanda. Bene. Diciamo che tutte, anzi ti dirò, sì, di più, tutte le rock band italiane che cantano in inglese temono questa domanda. Sì, certo. Per fortuna io me l'aspettavo e mi sono preparato. Temono e tremano. Esatto. Sì. Ma io ti posso rispondere che dal punto di vista pratico posso dirti che Andrea è cresciuto ed ha vissuto tanti anni negli Stati Uniti. Quindi può vantare un inglese pressoché perfetto e ha una pronuncia, oserei dire, molto buona. E questo è un punto a favore rispetto a tante altre band italiane che cantano in inglese. Questo dal punto di vista pratico, però forse c'è anche un motivo più intrinseco per il fatto che noi cantiamo in inglese. Sarà perché, anzi secondo me, perché viviamo a Bologna. È una città, dal punto di vista geografico, ma anche grazie all'autostrada e alle ferrovie, è una città che è molto ben collegata con il resto dell'Europa. Anche con gli Stati Uniti, il buon Francesco diceva fra la via Miglia e il West. Quindi, esatto. Quindi ha detto Guccini, quindi è una garanzia. Ah, si è detto lui. Appunto. E quindi, diciamo, per farti un esempio, da Bologna puoi raggiungere diverse città europee senza neanche cambiare treno. molto prima che inventassero la TAV. Comunque, tornando a noi, sarà questo fatto di vivere a Bologna che noi abbiamo sempre avuto questa vocazione all'altrove. Non è detto però che nel secondo album, perché noi faremo un secondo album, non è detto che scriveremo canzoni. Ribadiamo che noi faremo il secondo album. Esatto. Se non comprano il primo, non possiamo fare il secondo. Mi raccomando, allora. Non è detto che nel secondo album scriveremo canzoni anche in altre lingue e canteremo anche nella lingua più difficile da cantare, l'italiano. L'italiano, giustamente. Bene, allora, tutto questo preambolo da inglese a italiano, perché ci aspetta una canzone cantata in una terza lingua, allora, a questo punto. Pensamo te. Perché diamo spazio anche a un brano che era nato un po' di tempo prima rispetto a tutte le altre Cynical Stones. E si chiama Leipzig, allora adesso ce l'ascoltiamo nella versione tedesca e poi torniamo qui a parlarne insieme. Blu Radio Sera. Yeah. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ci siamo ascoltati Leipzig, loro sono Elia Fail, Cynical Stones e l'album. Attenzione, questa che vi abbiamo fatto ascoltare è una traccia, diciamo, riservata, diciamo, alla parte acustica di Elia Fail, perché all'interno del CD c'è la versione, quella cantata in inglese, di Leipzig. Ricordiamo, Leipzig faceva parte della DDR, quindi la Repubblica Democratica Tedesca, ed è quella città che si trovava subito sotto a Berlino. Allora, vogliamo sapere da Nico, portavoce di Elia Fail, come mai così questo attaccamento alla città di Lipsia. Ma guarda, Lipsia è una città meravigliosa. Io ci sono stato diverse volte e ci tornerei ogni anno. Diciamo che Lipsia è il simbolo di quello che potrebbe essere una città distrutta ma rifiorita. È stata maestosa durante il nazismo, poi è stata distrutta sotto i bombardamenti, è rifiorita nel suo splendore, però è stata soffocata dal totalitarismo DDR, esatto, della Deutsche Demokratische Republik. All'inizio del brano si sentiva l'inno nazionale della DDR, sì, che è una canzone bellissima che parla appunto di rinascere dalle rovine. Quindi diciamo che Leipzig è il brano che meglio riassume il nostro credo antimilitarista. Quindi nella nostra musica, come appunto nei nostri testi, come vorrei ribadire, il nostro messaggio di speranza. Cioè, dopo i bombardamenti, dopo la distruzione, bisogna risorgere e ricostruire. Flavio, Nico diceva una cosa molto interessante dal punto di vista tecnico: le difficoltà enormi. Corpose, pesanti, che lui ha avuto per registrare questo pezzo, vero Nico? Sì, stavo appunto dicendo che abbiamo suonato in uno studio di registrazione professionale. Naturalmente noi ci eravamo preparati adeguatamente all'ingresso di questo studio, abbiamo preso delle lezioni, i cantanti hanno frequentato assiduamente le loro lezioni abituali di canto, questo per affrontare in una maniera migliore la nostra prima registrazione professionale. Abbiamo suonato con una strumentazione ultra professionale che sì, valorizzava appieno il nostro suono, però accentuava anche quei piccoli difetti che fa parte del nostro essere musicista, difetti che poi sono stati naturalmente risuonati, riregistrati e corretti. Il disco suona in maniera perfetta perché il nostro fonico, che si chiama Cristiano Santini, ha lavorato tantissimo affinché tutti i suoni venissero valorizzati. E per quanto riguarda me, questa canzone mi ha fatto sudare un bel po'. Non la credevo così difficile da registrare, però per fortuna tutte le altre sono andato liscio. Benissimo, benissimo. Ma la difficoltà qual era rispetto alla canzone? Ma a seconda, Cristiano mi diceva che non mi concentravo abbastanza, perché questa canzone andava suonata in una certa maniera piuttosto che in un'altra, nel senso che questa canzone rispetto alle altre è un po' più pesante, va interpretata in una maniera abbastanza differente da un Just a Breath o da un Like a Star, e quindi io, abituato a suonarla dal vivo, non mi ero mai reso conto, o qualcuno non mi aveva mai detto: guarda, questa canzone va suonata in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Quindi io in sede, in quel momento, ho dovuto concentrarmi pienamente affinché uno non facesse arrabbiare il fonico, due venisse bene la registrazione. Anche perché mi sembra di capire che dalle sonorità che escono dal disco, il tuo modo di suonare il basso è molto aperto. Uh-huh. E quindi in questa canzone, in questa musica, invece ti sei dovuto trattenere molto in, esatto, questo caso, quindi a farlo un po' più sopito, sì, se vogliamo. Perché nella versione del disco c'è anche il violoncello suonato da Simone. E dovevo fare attenzione affinché le frequenze del violoncello non combaciassero troppo con le frequenze del basso, che spesso sono frequenze che si somigliano. So di entrare nel tecnico, però sarò breve. devo fare attenzione a non coprire gli altri. Ecco. Benissimo. Allora, finalmente è arrivata la mia canzone. Ah, finalmente. No, non che le altre, no, assolutamente. Però voglio dire, ne abbiamo parlato sin dall'inizio, ognuno ha i propri gusti. Bene che sia così della serie. L'importante è che il disco piaccia nella sua completezza, ma anche che ci siano dei pezzi che risaltino più in una figura piuttosto che in un'altra, in maniera che proprio si possa definire il disco completo. Allora, a me piace Like a Star, ne abbiamo parlato prima, l'abbiamo esaltato e finalmente è il turno di ascoltarlo. Allora lo facciamo, Lia Fail, Cynical Stones, e questa è la traccia che si intitola per l'appunto Like a Star. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ecco qua, allora avete capito perché mi piaceva tanto questa canzone? È vero? Certamente. Bene, Like a Star ha una storia, la storia di una persona che si, come dire, commisura con una stella, la stella che vede lontano, che pian pianino si consuma, tra milioni di anni si spegnerà, però la vita qua giù dura molto meno di una stella e quindi forse non c'è neanche il tempo a volte di concentrarsi sul mondo, sul ma mondo. Soprattutto come una stella stiamo a guardare quello che succede sul mondo e non facciamo niente. E non facciamo niente. Da qui è nato anche da questo testo è nato il titolo della canzone. Questo è un finale con i tamburi quasi epico, cosa dici? Sì, i tamburi, Giuseppe ha voluto dare un'interpretazione personale a questa canzone. Originalmente la canzone era fatta con dei tamburelli e con un piattino. Invece qui Giuseppe ha voluto dare un'interpretazione personale dandole un carisma più funereo, sì. molto più oscuro. I tamburi ricordano molto anche i Sound in un certo senso. Però mi fa piacere che nonostante i Sound non facciano parte del suo background, beh, Sound lui, è un bel gruppo. Lui abbia saputo interpretare pienamente questa canzone, ma soprattutto la buona interpretazione di questa canzone va anche a Sabella, che è l'ultima di una sfilza di cantanti che sono succedute al vocalista, insomma. Esatto, abbiamo cambiato tantissime cantanti perché per i motivi che ho spiegato prima, per motivi di studio, per motivi di lavoro, non sempre le ragazze riuscivano a tenere fede agli impegni. Soprattutto quando poi gli impegni aumentavano, come i concerti o le prove, parecchie ragazze facevano giusto uno o due concerti, poi ci salutavano e tornavano alla loro vita. Sabella è l'unica ragazza che ha afferrato il microfono e con tenacia ha portato avanti l'interpretazione dei brani fino ad arrivare alla registrazione finalmente del disco. Questo disco l'abbiamo registrato e anche grazie alla sua tenacia. Benissimo. Non abbiamo mai parlato in tutto questo tempo di Tony Wakeford. Guarda, Tony se avessi, Wakeford, avessi un'altra puntata a disposizione parlerei di lui tutto il tempo. Vabbè, facciamo una brevissima parentesi riguardo Tony Wakeford dei Sol Invictus, che so ha collaborato anche con voi. È stato un episodio molto divertente. Tony fa parte di una band che si chiama Sol Invictus, anzi lui è il principale autore e compositore di tutte le canzoni. È una band che inizialmente ci aveva molto ispirato. Infatti noi spesso dal vivo abbiamo fatto anche una cover di una sua canzone. Quando è successo che ricordiamo che è Wake of the Wolf, esatto. Se i nostri ascoltatori hanno voglia possono andare su YouTube e vedere quella divertente serata. Perché dico divertente? La serata era nell'ambito di un festival folk. Erano già le 3 del praticamente c'erano tantissimi gruppi che suonavano quella sera, noi eravamo uno degli ultimi. Invece i Sol Invictus erano gli headliner, quindi hanno suonato in prima serata intorno alle 9:30-10. Noi abbiamo suonato alle 2 del mattino. Nonostante tutto, Tony e tutti i suoi Sol Invictus erano ancora lì a sentire. A sentirci. Erano anche lì perché erano allo stand dei CD, però ci sentivano. Quando Tony ha visto che stavamo per suonare la sua canzone, io ho detto a Andrea, con il suo spiccato inglese, di invitarlo a salire, ma io non mai avrei immaginato che fosse salito. È venuto su con tutta la sua onnipotenza, è venuto sul palco e ha cantato con noi la sua Wake of the Wolf. Naturalmente una versione completamente diversa da come è originale, perché la sua versione è molto più intimista, molto più dark, molto più folk. Invece noi abbiamo fatto una versione molto ritmata, anche molto veloce. Che poi si vede, tra altre cose, perché io sono andato a vedermelo quel video, ecco, si vede che c'è proprio questa, diciamo, chiamata improvvisa, che non c'è stata preparazione, perché naturalmente chi è del settore vede le piccole imperfezioni, però si continua, buona la prima, anzi, eccellente. Devo dire che eravamo anche molto stanchi, perché il festival ci aveva preso non solo come... ci aveva preso dal punto di vista emozionale, ma anche dal punto di vista organizzativo, perché noi abbiamo portato anche la backline per gli strumenti, essendo l'unico gruppo italiano in mezzo a tanti gruppi stranieri, siamo noi che abbiamo aiutato gli organizzatori a portare strumenti, certo, o quant'altro. Quindi c'era tutto un lavoro dietro molto faticoso. Sappiate che chi suona fa un lavoro molto molto faticoso. E quindi cos'è successo? Da lì poi cene insieme, gran bevute di birre, come beve Tony, è qualcosa di meraviglioso. Naturalmente siamo piaciuti così tanto a Tony che ci ha chiamato anche per il festival successivo. Infatti l'anno dopo abbiamo risuonato di nuovo a questo festival. Tony, diciamo, è un personaggio molto famoso nell'ambito di nicchia, diciamo, non è, di questa scena folk. Spero un domani che ci sia un'altra collaborazione reale, tipo uno studio insieme, di un arrangiamento di una canzone insieme o di una scrittura insieme. Oddio, se ci invita a suonare a Londra, noi siamo contenti. Abbiamo detto che c'è il secondo disco in pista? Esatto. Bene, allora Tony Wakeford sicuramente arriverà. E allora, abbiamo ancora un po' di spazio da dedicare a Lia Fale, si meriterebbe tutta la serata, ma in qualche momento dobbiamo chiudere, no? Però noi abbiamo deciso di andare avanti ancora con due pezzi. Allora, inseriamo un altro pezzo sempre tratto da quegli esperimenti, diciamo, acustici di Lia Fale, mentre ricordiamo ancora una volta, per entrare in possesso del disco, come possono fare. Esatto, visitate il nostro sito www.liafale.it, oppure sì, visitate il nostro MySpace /LiaFileMusic, oppure visitate il nostro Facebook, il nostro Last FM, YouTube e quant'altro esiste in rete. Perfetto, allora abbiamo dato le coordinate per entrare in possesso anche del disco, mentre ricordiamo che la trasmissione che stiamo registrando entrerà a far parte dei nostri archivi sonori, per cui si potrà riascoltare Lia Fale appunto in una versione, diciamo, diversa, tanto per fare l'abbinata disco, quello bello, e una registrazione, diciamo, chiamiamola bootleg, in questa maniera, dove si possono ascoltare alcuni pezzi, diciamo, riveduti e corretti in chiave acustica. In questo caso, da Cynical Stones abbiamo scelto di farvi ascoltare appunto nella versione acustica Lonely Anguish, eccola qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. On our mind, so Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Lonely Anguish con gli Affail, Cynical Stones si intitola il loro lavoro, ce lo siamo ascoltati in una versione acustica. Ancora a parlare di guerra, ancora a parlare di violenza, ancora a parlare di soldati, diciamo i primi protagonisti di quella che è questa tragedia che è la guerra. Allora... Esatto, Lonely Anguish sì, in particolare racconta di un esercito che è costretto a invadere un'altra nazione già ridotta allo stremo. Mi vengono in mente delle cose attuali, comunque non voglio dilungarmi oltre. Mi vengono in mente degli attuali eserciti stranieri che vanno in altri paesi e sono presenti là, non so per quale motivo. Sì, questa è una canzone, anche questa, che diciamo riflette tutto il nostro credo antimilitarista. Anche qui, a un testo così crudo, abbiamo voluto aggiungere una colonna sonora molto... molto wave. Sì, molto accattivante, molto esatto. Wave. Qui devo ringraziare Edoardo perché nonostante lui piaccia molto il prog anni 70, il metal anni 70, con la sua chitarra acustica mi ha accontentato e ha fatto di tutto per interpretare questa canzone in chiave wave. Edoardo è un ragazzo molto capace che pienamente ha abbracciato la chiave acustica, quando invece lui è un rocchettaro. È, convinto. Sì, ha dovuto appendere al chiodo la chitarra elettrica per farmi contento. Ma ci sarà nel secondo disco forse la chitarra Guarda, elettrica? Guarda, proprio ultimamente è entrato a far parte della nostra band un nuovo chitarrista che si chiama Giovanni De Benedetto. E, lui si occupa, oltre di chitarra acustica, si occupa anche di chitarra elettrica e anche è appassionato di elettronica. Quindi non è detto che Giovanni possa dare anche un'impronta nuova al nostro futuro album, perché noi faremo il secondo album. Sì, ribadiamo che probabilmente è già pronto il secondo album, qualcosa o qualche idea c'è già, vero? Qualche idea c'è Nico? Già, sì, qualche idea c'è già. E sicuramente questa volta accontenteremo anche Edoardo con l'aggiunta di una chitarra elettrica, accontenteremo anche Giovanni, nuovo chitarrista, con l'aggiunta di qualche fondamento di elettronica, qualcosa che renda più moderno il nostro suono. Non snaturandolo però. Spero di no. Appunto. Cioè, oddio, non vorrei rubare il mestiere al DJ che verrà dopo di noi, ma sicuramente non faremo elettronica. Ecco. Assolutamente. Tra le altre cose, è giusto anche ricordare che i testi sono tutti tuoi, Nico, sì. Mentre la musica, proprio perché l'hai proprio citato adesso, è degli Affael tutti insieme. Sì, sì, come prima ho raccontato che sì. preparo dei semplici provini nel mio tempo libero e poi quando do questi provini agli altri li ascoltiamo insieme e scegliamo che provini che hanno un maggior possibilità di sviluppo. Da lì, una volta che abbiamo lavorato insieme su questi provini, vediamo come nasce una canzone. Andrea, che è bravo in inglese, mi traduce il testo e lo adattiamo alla musica. E poi vabbè, suonandoli molto dal vivo, sono cresciute da sole, si sono evolute fino a quando hanno trovato una giusta collocazione musicale. Benissimo, allora Nico, il tempo a nostra disposizione è terminato. Non ce ne siamo accorti, però siamo andati veramente bene presentando il disco, musica piacevole da ascoltare, i testi li abbiamo così imparati a conoscere, perché in inglese magari qualcuno fa anche fatica nell'immediato a capirli. Però un'ultima cosa prima di andare: Cynical Stones è una copertina, bisogna indicarla anche agli ascoltatori come la troveranno. E ho visto che ci sono delle figure umane e pietrificate. Sì, sono delle statue. Praticamente a Bologna c'è un parco dedicato al regista Pierpaolo Pasolini. In questo parco è presente una processione di 200 statue in cemento. Sono tutte grigie, prive di volto. E per il fotografo che ha fatto le copertine dell'album, che si chiama Giancarlo Donatini, che tra l'altro è un reporter abbastanza famoso a Bologna, Giancarlo conosceva le nostre canzoni, perché ci segue già da parecchio tempo dal vivo. Anche lui ha avuto in anteprima il nostro album prima che uscisse. Cioè, appena registrato ha avuto l'album. Però conoscendo le canzoni, si è ispirato alle canzoni e ha interpretato quelle statue come perfette per la copertina. Effettivamente quella processione di statue grigie senza volto possono ben identificare la massa accidiosa completamente refrattaria a qualsiasi argomento politico o sociale. Però c'è anche un'altra interpretazione, volendo. Sembra un popolo in fuga da una città ormai distrutta, un popolo in esodo cercando una nuova dimensione. Quindi non assolutamente le statue cinesi che sono messe a guardia dell'imperatore cinese Qin, mi pare si chiami. Assolutamente no. Si chiami così, quindi tutto al contrario, diciamo. Sono veramente inquietante guardarle così, no? Quindi forse è l'effetto che anche si voleva dare nell'ambito, diciamo, dark in questo caso, anche se la copertina è di un ottimo verde che comunque richiama sempre l'esperienza celtica. Esatto. Ecco, bene. Allora, abbiamo affrontato tutti gli argomenti, abbiamo parlato di musica celtica, musica folk, la new wave, la prog, il rock, il punk, tutto quello che c'è all'interno di questo disco Cynical Stones. Protagonisti di questa serata sono stati Lia Fale e il portavoce del gruppo è Nico, che è qui con noi e lo salutiamo e gli auguriamo intanto un buon rientro nella sua amatissima Bologna e ci vediamo presto col secondo disco, speriamo. Va bene, allora prima di lasciarci presentiamo anche l'ultimo pezzo, merita forse un cappello, quindi A Soldier. Uh-huh. A Soldier, che è la traccia, diciamo, finale, anche se non è corretto definirla così, perché poi abbiamo parlato anche di traccia fantasma. Allora, una breve presentazione di Soldier. Sì, è la traccia finale che chiude l'album. Parla appunto della tragica vita che deve costringere, che è costretto a fare un soldato. Vivere tra le montagne, tra la neve. Questa canzone volevo dedicarla ai partigiani, che spesso durante la guerra i partigiani si nascondevano nell'Appennino tra la neve e gli alberi, in attesa appunto della battaglia imminente e dell'inevitabile morte. E l'abbiamo messa come canzone finale a chiudere il tema unico dell'album. Bene, e noi l'abbiamo messa come canzone finale proprio per salutare i nostri ascoltatori e dire grazie per essere stati con noi, grazie ancora a Nico per esserci venuto a trovare. E allora è proprio tutto da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, solito grande caloroso ciao. Vi lasciamo con l'ultima traccia di Lia Fale, The Cynical Stones, appunto questa è Soldier. Grazie a tutti, ciao, buonanotte, ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Snow surface light. Hold it steady. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.